guardate di là, che risuona e richiama tante reazioni, situazioni che conosciamo molto bene. Però voglio fare annotazioni di questa polemica tra Gesù e gli scribi. Perché in molte occasioni, leggendo i Vangeli, possiamo vedere che il messaggio radicale, coinvolgente di Gesù, produce divisioni. Le risposte che vengono date, pur da uomini e donne appartenenti a categorie come gli scribi, possono essere diverse. Notate che Gesù è ebreo, come gli scribi con i quali è in polemica, o gli scribi sono in polemica con Gesù. Cioè Gesù ebreo, come gli scribi, apre un conflitto con coloro che esercitano potere e lo esercitano sulla pelle dei deboli, diciamo. E il linguaggio è tagliente, è chiaro. L'atteggiamento di superiorità, la posizione di prestigio, sono strettamente collegati a pratiche di violenza e di sopraffazione. In questo caso nei confronti delle vedove, poi dirò perché in modo particolare le vedove. Cioè, detto così subito, persone le più deboli, quelle più bisognose in quell'epoca, in quanto prive di identità, è come fantasmi che girano, senza identità, senza carta di identità, senza riconoscimento, senza un ruolo, senza una collocazione, senza quindi un riconoscimento che fosse degno di una convivenza. Che cosa mette in discussione Gesù con queste polemiche, con queste conflittualità? Esprime una condanna per l'uso del potere esercitato, notate, da uomini e donne, meglio da uomini, che all'interno di un ruolo riconosciuto, anziché trasformare questo potere in una possibilità di relazioni nuove, di cura, di sostegno, di attenzione, lo utilizzano per uso proprio. Forse la cosa peggiore è che si nascondono dietro a una facciata di perbenismo, di prestigio religioso, sociale. Utilizzano il loro ruolo per defraudare i poveri e non concretizzano le parole che pronunciano. Parlano di amore di Dio senza incarnarlo, né in se stessi, né nelle loro pratiche. Fatte queste annotazioni, però, mi preme anche portare all'attenzione che la cosa che Gesù ritiene più temibile è che nel discorrere di Dio, nel parlare di Dio, su Dio, attorno a Dio, vada perduto proprio Dio. Così che la fede, la religione, si trasformano in scienza, storia delle religioni. Quindi Dio diventa un prodotto spirituale intellettuale come qualcosa che si può imparare a memoria, con la lavagna davanti. È evidente che quando si tratta di Dio, Gesù desidera che in tutti i tempi, in tutte le latitudini, ci faccia una scelta tra il pontificare, il discutere, l'argomentare e l'esistere. A Gesù deve essere sembrato un'assurdità che ai suoi tempi gli scribi usassero proprio la parola di Dio per farsi belli, per farsi concorrenza tra loro, per contrapporsi con delle argomentazioni, con dei discorsi. E così si mettevano in luce, adoperavano Dio. Per conoscere Dio, Gesù, anche questo è interessante, non ha mai citato la Bibbia, ma ha considerato piuttosto la vita degli uomini e delle donne come il libro aperto da scrutare, da leggere, perché è dentro lì che si coglie la presenza di Dio. Non dico che si può dare il nome, non si può dare il nome a Dio, non usiamo questa parola, ma nel mistero. Allora c'è l'altro passaggio, non a caso. Seduto di fronte al Tempio, Gesù osserva. E evidenzia ed esalta una persona sempre anonima, appunto la vedova. Faccio notare, vedova, donna di regione straniera, fuori dal contesto della storia di Israele, con ciò che comporta per la cultura degli ebrei in quel tempo. Pensate, non entrava neppure nella categoria del prossimo. Non esisti. Tu vedova non esisti. Senza identità, senza ruolo riconosciuto. Quindi, condizione misera la più bassa, la più emarginata tra tutte le donne. E questa donna diceva un segno di attenzione, un segno di benevolenza. Mi richiamo San Paolo quando dice: Dio sceglie le cose che non contano per confondere quelle che apparentemente sembrano contare. Queste due donne, prima le due che abbiamo fatto, la donna, la vedova di Zaretta, che dona l'ultimo pane, e la vedova a Gerusalemme dona l'ultimo denaro. Due donne povere, senza identità, senza nome. E mi viene allora questa riflessione. Un gesto insensato, quello delle due donne, che non è logico, non è intelligente, è follia, ma è lo scandalo del dono, della condizione, lo scandalo della speranza. Chi dona tutto non si stupisce. Ogni atto, ogni gesto umano, come dire, informato, non appena colorato, informato, il bevuto del dono, ha in sé qualcosa di sacro. Qui sì, si può usare la parola sacra. tutto ciò che è fatto con tutto il cuore si avvicina all'assoluto di Dio. I gesti di questa follia, di queste due vedove, sono gesti dei figli del dono, capaci di gettare in avventure assolute. La vedova di Zeretta, avventura assoluta, dentro nella vicenda del profeta Elia, uno dei più grandi. Gesù osserva, ma osserva non il quanto, ma il cuore. La vera misura è quanto cuore, quanta vita metti in ciò che fai, quanta verità cerchi in ciò che fai. E allora per stufarvi fino. Però con questa considerazione si può fare l'esaltazione da parte dei dotti, dei potenti, sulla grandezza di queste vedove. Lo sto facendo anch'io adesso. Cioè esaltare, no? È enorme. Gesù Cristo, quello fa notare. Però, storie di oggi, questi sapienti, noi magari, io, non sapiente, sono quello che sto parlando, se ne guarda bene dal dire, allora, se è così degna di attenzione questa donna, prenda posto accanto a noi. Se è grande e sapiente, dinanzi a Dio, prende la parola a lei, diamo la parola a lei, facciamo in modo che anche lei prenda la parola. Non so se in Vaticano o nelle chiese, penso di sì. Voglio aggiungere con questo, nella nostra buona società, della nostra elegante chiesa, c'è il sentimento di attenzione per i poveri, anche sentimenti veri, generosi, ma loro di fatto, i poveri, restano là, al loro posto, così noi facciamo le buone azioni. Mangiamo il cioccolatino, prendiamo la carta spagnola e facciamo la spedizione per le protesi dei bambini. Vabbè. Ecco come si può svuotare il significato profetico del Vangelo. Il rischio di adoperare il Vangelo per garantire i garantiti. E chi ha primi posti ci restano, chi sono gli ultimi posti, stanno agli ultimi posti. Questa è l'ipocrisia anche della religione, consolarci che Dio tiene in considerazione gli uomini. Non voglio togliere nulla al sentimento, alle consolazioni, alle buone azioni, però non dimentichiamo che Dio guarda il cuore. E allora diciamo gloria a Dio nell'alto dei cieli.